608. Pasta maddalena. Zucchero grammi 130, farina fine grammi 80, burro grammi 30, rossi d'uovo numero 4, chiare numero 3, una presa di bicarbonato di soda, odore di scorza di limone. Lavorate prima i rossi d'uovo con lo zucchero e quando saranno diventati biancastri, aggiungete la farina e lavorate ancora per più di un quarto d'ora. Unite al composto il burro liquefatto, se è d'inverno, e per ultimo le chiare montate. La farina asciugatela al fuoco o al sole se d'estate. A questa pasta potete dare forme diverse, ma tenetela sempre sottile e di poco volume. Si usa metterla in degli stampini lavorati, unti col burro e infarinati, oppure in teglia alla grossezza di un dito scarso, tagliandola dopo in forma di mandorle che spolverizzerete di zucchero a velo. Potete anche farla della grossezza di mezzo dito e appiccicare insieme le mandorle a 2x2 con conserve di frutta.